Voci dal Giro. Buonasera a tutti di nuovo. Manca la prima vittoria italiana a questo Giro d'Italia, vince il colombiano Chavez, ma abbiamo almeno una nuova maglia rosa che parla la nostra lingua, è quella di Adriano Malori. Ivan Basso, buonasera. Buonasera a voi. Che tappa hai visto, Ivan? Ho visto una tappa durissima, una tappa difficile sotto tutti i punti di vista, dalla lunghezza 210 km, l'altimetria più di 3000 metri di dislivello e un grande caldo, quindi è stata una tappa molto molto molto difficile e quindi è una giornata molto più dura di quanto ci aspettavamo. Può essere un problema la maglia rosa in casa del nemico, la Lampre? La maglia rosa è un bellissimo problema che tutti vogliono avere, quindi chiaramente i nostri complimenti, i miei complimenti personali ad Adriano Malori, che è un ragazzo di grande futuro, lo conosco personalmente, ha delle qualità eccellenti e quindi sono molto felice per lui. E comunque la maglia rosa non è mai un problema, averne di problemi così. La tappa di domani, primo arrivo in salita, non è di quelli particolarmente impegnativi, dirà già qualcosa secondo te, magari complice le condizioni climatiche, su questo Giro d'Italia? Ma guardi, io credo che in questo Giro d'Italia di tappe facili non ce ne sono, non so esattamente quello che capiterà domani, sicuramente la tappa di oggi si farà sentire, ma questo è il Giro d'Italia, quindi giorno dopo giorno bisogna lottare e o non perdere tempo o guadagnarne nella migliore delle ipotesi, e questo è il lavoro che io farò con i miei compagni per tutto il Giro d'Italia. Grazie Ivan. A domani. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Buona serata. Grazie dunque ad Ivan Basso e chiudiamo qui questo appuntamento con gli speciali Giro d'Italia. Torniamo domani mattina dopo il GR Sport. Buona serata. Voci dal Giro.